alcune compagne dei gruppi femministi, delle precarie, hanno scelto di fare delle azioni, calare il nostro scione per manifestare il proprio dissenso verso lo scempio che stava avvenendo nella città di Roma. Siamo state ovviamente duramente attaccate, ma dopo un anno in cui il femminicidio è diventato emergenza nazionale, un anno in cui ci hanno tolto i diritti e il futuro, abbiamo deciso che quest'anno non poteva passare così. Volevamo che questa piazza fosse ampia di tutti e di tutte, e volevamo appunto che quella manifestazione fosse vietata, o quantomeno che il Comune di Roma, che è un'istituzione laica, non desse il patrocinio a questa marcia degli orrori. Abbiamo quindi 10 giorni fa alcuni gruppi, visto che insomma questa manifestazione ci sarebbe stata, ci siamo mobilitate in fretta, e possiamo dire intanto che questa è la piazza che lavora tutti i giorni per la vita, tutti i giorni in cui manifesta e lotta per i diritti e il welfare per tutte, quella piazza, questa piazza che manifesta e lotta per i consultori affinché non vengano disinvestiti o chiusi, questa piazza che lotta per i centri antiviolenza per le donne e per fare in modo che la sessualità libera venga appunto venga data e tutelata per tutti. E abbiamo scelto insomma di sfilare, abbiamo chiesto 1000 cortei, abbiamo fatto delle richieste, la questura ce li ha vietati perché ovviamente per loro è importante che quella marcia sfili, perché sono i voti dei cattolici, delle suore, dei preti, che in questo cazzo di paese sono migliaia e vivono sulle nostre spalle perché non pagano un cazzo. Loro non difendono alcun diritto se non i propri interessi. E allora noi abbiamo deciso che questa mattina saremmo state qui lo stesso, senza alcuna autorizzazione. Non ci interessa, avremmo comunque fatto un corteo ed è quello che faremo tra poco. Fuori i preti dalle mutande! Fuori i preti dalle mutande! Abbiamo deciso di essere oggi qui nonostante i divieti della questura, abbiamo deciso che le strade di Roma comunque fossero, anche senza autorizzazione delle antifasciste, degli antifascisti di questa città, delle antifasciste, degli antifascisti, abbiamo deciso che la città di Roma è laica, come ogni giorno le compagne sui centri antiviolenza continuano quotidianamente a rivendicare l'autodeterminazione e la libertà di scelta delle donne in questo paese. L'emergenza dei femminicidi è un'emergenza di Stato, è un omicidio di Stato, nel momento in cui i centri antiviolenza vengono depauperati dei fondi nazionali. C'è un'emergenza in atto in questo paese. Il compagno prima ha fatto un bellissimo spezzone del suo spettacolo dedicato a Giorgiana Masi. Noi oggi siamo qui per ricordare la sua memoria, affinché la sua morte non sia stata invana. Abbiamo deciso comunque di sfilare, questa città è nostra, ce la riprendiamo sotto tutti i punti di vista. Roma è una città laica, appartiene alle antifasciste e agli antifascisti, appartiene alle donne che decidono quotidianamente di lottare contro la violenza. Abbiamo deciso che ci saremo nonostante i divieti della questura e siamo qua. Tra poco partiremo in corteo per andare a dare il nostro saluto oggi, 12 maggio, a Giorgiana Masi, uccisa dallo Stato.